Libera la mente da quella brutta prigione. Libera la mente da quella brutta prigione. Abitudine e noia correranno in stazione. Abitudine e noia correranno in stazione. Con tutti i tuoi credo al sapore un bel muro. Con tutti i tuoi credo al sapore un bel muro. Ma non ti sentire così tanto sicuro. No, poi un bel giorno, voltandoti indietro, capirai che era solo un fragilissimo vetro. E ormai sarà tardi per cambiare le cose. E ormai sarà tardi per cambiare le cose. Dovrai rassegnarti, sarà doloroso. Sentirti più uno scarto, Toto. Stai con me alle 4:15. Adoro i miei amici se mi prestano la bici. La sera è bella quando esco con l'amica di mia sorella. Senza tempo. che brutto tempo che sento dentro, quando la gente parla tanto e senza senso, non c'è più tempo per le parole. Musica, linguaggio armonico. We'll be right back. want to love you so. Un modo c'è per diventare migliore. Inizia a viaggiare col cuore. leccatevi il dito.